La notizia è che ci vediamo in presenza ed è anche un grande piacere con Elena Di Gioia, già con Agorà, con il programma che continuiamo a seguire e con un nuovo festival, una nuova rassegna. Il nome mi affascina tantissimo, essendo appassionato del mito. Epica è il nome della rassegna. Intanto buongiorno Elena. Buongiorno, ed è veramente bellissimo, come dicevi, vedersi dal vivo, in presenza. Di che si tratta? Allora, Epica appunto contiene lo spirito di avventura, già nel nome, di impresa e di coraggio. È un nuovo festival, quindi con coraggio presentiamo un nuovo festival estivo che dal 2 al 6 giugno e il 15 e 16 giugno tra Bologna e la città metropolitana, ovvero Castelmaggiore, Pieve di Cento e Castello d'Argine, snoda un vero e proprio viaggio dello sguardo per spettatori e spettatrici all'interno di quella che è proprio un senso speciale, appunto, per la parola festival, di ritrovarsi comunità del teatro dopo un anno in cui siamo stati fermi, sospesi, interrotti e fratturati anche. La linea di questa nuova realtà, di questa rassegna? Epica Festival ha un sottotitolo: Arti performative e linguaggi della scena contemporanea. Quindi il focus di attenzione è sui linguaggi, è su artisti della scena contemporanea, e nel programma è stato importante per me intrecciare proprio i percorsi, mescolare un po' le carte tra anche generazioni della scena a confronto. Quindi sono presenti figure importanti che hanno segnato e segnano tuttora il teatro, da Antonia Tisani, César Brill, Teatro delle Albe, Mariangela Gualtieri, Roberto Latini, intrecciandoli a tanti, adesso l'elenco sarebbe molto lungo, sono oltre 15, ma quando si inizia con uno lì si vuole dopo dire si ha paura di lasciare lì si vuole indietro. Dire tutti, perché è una condivisione straordinaria, e quindi Marco Sgrosso, Ateliersi, Massimiliano Civica, Paolo Nori, Blue Motion con un affondo su Kay Tempest, Roberto Latini, veramente tanti che invito, insomma, Oscar De Summa, Kepler 452, ecco, quindi invito a scoprirlo, insomma, anche sul nostro sito. Questa eccezionalità, questa specialità è anche un segnale concreto e simbolico di dare un rilancio agli artisti, di sostenerli, di sostenere la finalmente ritrovata relazione con il pubblico, e di farlo anche all'interno di un intreccio di luoghi, come ci piace fare, come Agorà, e come ben sai seguendoci certo. Tu da vicino. E quindi anche questa volta abbiamo scoperto dei luoghi, da poderi agricoli a luoghi del paesaggio e luoghi culturali intrecciati al lavoro degli artisti. A Bologna siamo nel programma di Bologna Estate, a Bologna toccheremo un altro luogo del cuore, che è Sala Borsa, con una performance appositamente creata da Roberto Latini, che per noi racconta anche di quell'unione biblioteche e teatri fermi entrambi a lungo e che ora si ritrovano intorno alle parole del teatro e del senso dell'arte e della cultura nella vita di tutti noi. Chi comincia? Comincia Mariangela Gualtieri con Voce che apre, uno dei suoi preziosi riti sonori, ed è stato importante per noi iniziare proprio con Mariangela Gualtieri, perché credo abbiamo bisogno di poesia tutti nella vita, in questo momento a maggior ragione, e quindi volutamente iniziamo con lei e chiudiamo il festival con il film The Sky Over Kibera. Chiudiamo il festival nella prima sezione fino al 6 giugno, The Sky Over Kibera di Marco Martinelli, che insieme a Ermanna Montanari presenta il film. E dicevo, c'è una seconda sezione poi il 15-16 giugno con il debutto di Kepler 452 con lo spettacolo urticante Gli Altri. Il programma di spettacoli e performance è attraversato anche da quattro tavole rotonde curate insieme a Lorenzo Donati, e sono quattro momenti, quattro atti di pensiero e di riflessione, per cui abbiamo convocato una serie di studiosi, critici e studiose a livello nazionale per riflettere intorno ad alcuni punti di che cosa è successo in questo anno al teatro, come possiamo anche ridisegnare un orizzonte. Dà anche l'idea del cantiere dove stiamo facendo l'intervista, per cui siamo emozioni in progress, si può dire. Siamo al lavoro, letteralmente. Esatto, questa ne è la testimonianza, no? Sempre in collaborazione con Unione Reno Galliera, che è l'unione degli otto comuni che promuove la stagione Agorà, e quindi quindi questo nuovo germoglio, questo nuovo fiore di progetto Epica Festival con la Regione Emilia Romagna, con Bologna Estate, la Fondazione del Monte che ha colto questo segnale di sostegno appunto a sua volta ad artisti e spettatori. Questa volta l'online lo adoperiamo per quello che deve essere adoperato, cioè se uno vuole informazioni sugli spettacoli, in questo caso è quanto mai utile, si può andare sui link epicafestival.it e stagione agora senza accento stagioneagora.it. Io ti ringrazio tantissimo e buona estate. Grazie anche a te, finalmente a ben trovarci a teatro e nei luoghi.